I punti di forza sono soprattutto l'Italia dei libri, di cui abbiamo parlato moltissimo e che speriamo possa conseguire i risultati per cui stiamo lavorando da un anno e più. E, come detto, un grande progetto culturale che non è mai stato realizzato, è una lettura dell'Italia attraverso la editoria, attraverso i libri, insomma attraverso la cultura. Questo credo che sia il focus principale. Poi non so, la novità strutturale dell'Oval, poi cosa possiamo dire? Poi ecco le regioni d'Italia che finalmente sono quasi in maniera compatta presenti alla Fiera del Libro per creare anche loro un apporto a quest'Italia dei libri attraverso però la specola della cultura locale, della cultura dialettale, della cultura che per forza di cose in una manifestazione generalista non si è potuto assolutamente. Per cui insomma molte cose.